le acciaierie e l'attività industriale in Alto Adige, quindi una sorta di introduzione a tutto il discorso dell'industria, dell'industrializzazione, che volente o nolente è legato in maniera molto forte anche alla nostra comunità e che mi ha segnato anche, diciamo, parti fondanti della sua vita, del suo perché, delle motivazioni per cui sono arrivati anche parecchi cittadini questa città, in questa provincia, e proseguiremo per altre settimane per tutta la durata della mostra, quindi ricordo la settimana prossima l'incontro con Hannes Obermeier e Maria Chiara Pasquali, che invece parleranno della genesi e riconversione urbanistica della zona industriale di Bolzano, quindi uno sguardo storico ma anche in relazione al master plan, quindi al futuro di questa seta importante della nostra città. Vi faccio un ultimo spot pubblicitario, perché mercoledì mattina alle ore, quindi il 29, alle ore 11, qui in biblioteca presentiamo il libro, la biografia, diciamo, del vescovo Wilhelm Egger. Ecco, a 2 anni dalla sua morte, Josef Gelmi, che è, diciamo, uno storico della diocesi, ma non solo, anche del Vaticano, perché ha scritto parecchi libri sui papi, si è impegnato in questa biografia, è stata pubblicata recentemente, quest'estate, ci sembrava interessante proporlo anche in questa biblioteca, solo che, considerate le numerose iniziative che avevamo già previsto, abbiamo scelto un orario facile da gestire anche per noi in concomitanza con gli altri impegni già presi, e quindi lo proponiamo alle 11 di mattina. Mercoledì. Ecco. Cedo la parola ad Andrea Bonoldi, grazie ancora di essere venuto e grazie a voi. Ci sono delle bibliografie sul tavolo, se qualcuno fosse interessato a leggere qualche libro, avere qualche segnalazione. C'è tutto il materiale lì. Grazie Valeria per l'invito, è per me un piacere poter parlare qui di questo argomento. La Biblioteca Provinciale di Lingua Italiana mostra sempre una sensibilità particolare nell'accompagnare i movimenti culturali di Bolzano, dando una sua impronta appunto è quella del contributo che viene dato in questi incontri, ma anche nella messa a disposizione del proprio pubblico di bibliografie aggiornate sui temi che vengono affrontati. Posso chiedervi il favore di venire un po' più avanti, così riempiamo i posti, anche perché avevo intenzione di farvi vedere qualcosa. Visto che siete stati bravi e avete affrontato la pioggia, venire qua vi faccio vedere qualcosa in premio. Io so che forse deluderò qualcuno oggi, nel senso che non parlerò soprattutto dell'acciaieria. Perché quello che abbiamo visto, a parte perché c'è dentro gente che ne sa molto più di me e mi coglie senz'altro in castagna, ma quello che una ricostruzione storica delle acciaierie la trovate nel catalogo che accompagna la mostra, che è questo libro qua, e poi trovate in mostra soprattutto le fotografie che accompagnano una descrizione delle vicende principali dal punto di vista storico, dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica. Il tentativo che voglio fare oggi è quello di provare a raccontare la vicenda delle acciaierie all'interno dell'evoluzione del settore industriale in Alto Adige nel suo complesso. Perché per capire qual è stato il ruolo, qual è stata l'importanza di uno stabilimento come le acciaierie, ma anche qual è stata la motivazione delle tensioni politiche, dialettiche che ci sono state intorno a questo stabilimento, per fare ciò è necessario capire qual è stata la storia dell'industria in Alto Adige. Come ho avuto occasione di dire all'apertura della mostra, uno dei problemi che abbiamo a livello locale nella percezione della nostra esperienza storica, ne abbiamo diversi, la percezione della storia è qualcosa di diverso da quello che la storia è stata veramente. La percezione della storia che abbiamo è quella che ci viene tramandata dall'immagine pubblica dei fenomeni storici. Ecco, uno dei problemi che noi abbiamo nella percezione della realtà storica è quella di valutare in maniera corretta qual è stato il contributo che determinati settori economici hanno dato allo sviluppo complessivo di questa terra. Il Trentino Alto Adige, l'Alto Adige in particolare, alla fine della Seconda Guerra Mondiale era al 50° posto nella classifica delle province italiane per livello di benessere. Oggi siamo al secondo. Allora, che cosa è successo in questi 60 anni che ha consentito questa trasformazione? Quali sono state le forze che hanno consentito di aumentare su questa scala la performance economica di questo paese. Ecco, per valutare questa cosa occorre andare a cercare di ricostruire un po' le vicende dell'economia locale, sfatando anche un po' di luoghi comuni che noi abbiamo. Consiglio di cominciare con un gesto un po' maleducato, insomma, voi, di solito chi va a una conferenza va per ascoltare. Adesso io vi faccio una domanda invece e chiedo una risposta da voi. Nella vostra idea che avete, fatto 100 il reddito complessivo prodotto in Alto Adige, quanto pesa l'industria, quanto pesa l'agricoltura e quanto pesa il turismo? 30-30-30. Lei dice 30-30-30? Ok. No, l'agricoltura, ho sentito, ho letto, che è favorita dal Luis Duinwalder, che conoscete tutti, che è favorita. Certo. L'agricoltura di montagna, per cui deve essere la percentuale maggiore deve essere l'agricoltura. Ok, va bene. No. Luis Duinwalder era direttore del Bauer, lui non ci soffrende la cosa. No, comunque io penso che più del 50%. Più del 50%? Sì, no. La quota aspettante all'industria. Aspettante all'industria. Io penso il 25%, meno del 30%. Meno del 30%. E l'agricoltura? L'agricoltura, visto che 30%. I meli, i peri, peri, l'uva, la vitigno, il vino e il balevare. Lei è d'accordo su 30 allora? No, sono di più. Di più. Sì. Di più. Di più, di più. Di più. E turismo? Turismo è secondo. Secondo perché qui ci sono le montagne, qui ci sono... Ok, d'accordo. Ma mi scusi un attimo, l'artigianato dove va dentro in questa classifica? Allora, l'artigianato in realtà in questa classifica va in gran parte all'interno dell'industria quando si viene fatto in imprese che superano un certo numero di dipendenti. Poi una parte invece che è l'artigianato di servizio, quello viene calcolato nel servizio. Questa è sulla questione della posizione dell'artigianato, è una questione che... ha dato da fare agli statistici per un bel po' di tempo, perché c'è un artigianato che in realtà è piccola industria in gran parte, no? Sfugge alla classificazione industriale tradizionale, ma ha quella funzione, ha quello scopo lì e quindi va classificato come tale. L'immagine che voi mi avete dato adesso, le risposte che avete dato, sono perfettamente coerenti con l'immagine che si vuole dare dell'economia di questa terra. Qualcuno ha colto la questione e ha collocato in maniera abbastanza corretta il peso dell'industria, ma se noi andiamo a vedere i dati, l'agricoltura incide sul prodotto interno lordo dell'Alto Adige per non più del 5%. Il turismo incide sul prodotto interno lordo nel calcolo più ottimistico che è stato fatto da questo punto di vista, perché prima l'Astat aveva fatto un calcolo più basso, poi probabilmente qualcuno si è lamentato e qualcosa è stato proposto un calcolo alternativo con un modello molto complesso. Allora, nella ipotesi più ottimistica incide per un 13%. Quindi se noi mettiamo insieme agricoltura e turismo arriviamo a un 18%. Nel 2008 il prodotto interno lordo dell'industria in Alto Adige era del 23%. Quindi agricoltura e turismo insieme oggi producono circa un 5% in meno del reddito che viene prodotto dall'industria. Chi l'avrebbe mai detto? L'immagine che abbiamo noi della nostra economia è un'immagine del tutto diversa. Poi la quota maggiore comunque del prodotto interno lordo è legato ai servizi in generale. I servizi incidono complessivamente per oltre il 70%. Oltre il 70% dei servizi. All'interno di questi c'è il turismo con la sua quota, eccetera. Quindi è una... Abbiamo una struttura economica che è la struttura economica delle società avanzate, con un'elevata quota ai servizi, una quota più contenuta all'industria, dicevo 23%, e una quota decisamente piccola all'agricoltura. No, mi spieghi un po', i servizi come fanno a produrre economia? Allora, pensi... ma il discorso del prodotto interno lordo è il problema, perché io non l'ho neanche considerato... ad esempio tutti i servizi, quello coprono senz'altro la maggior parte. Sì, sì, ma infatti. Se dividiamo però alle attività produttive quel 23% e il 18% che veniva fuori, il mio discorso che era superiore al 50%. Sì, sì, ma i servizi vanno calcolati perché sono attività che producono reddito. Tutti i servizi finanziari, tutte le attività di intermediazione commerciale, tutte le attività professionali, sono tutte attività che contribuiscono alla formazione del reddito in maniera rilevante. Come in tutte le società occidentali avanzate, la quota dei servizi in Alto Adige è una quota molto elevata. La risposta che avete dato voi sono quelle che rispondono all'immagine ufficiale che si è voluta dare dell'Alto Adige. È chiaro che questa cosa ha una logica, perché l'industria è brutta, sporca, fa rumore, e se io voglio vendere il prodotto del territorio Alto Adige, il marchio Alto Adige fuori, fa più effetto se faccio vedere il pascolo con le mucche, il mercatino di Natale, le mele, lo spedito, eccetera. E quindi se ragiono in termini di marketing, probabilmente questa è una scelta giusta. È che dietro però al marketing c'è la percezione reale che anche i cittadini hanno di una realtà. E questa tende a volte a essere distorta e a nascondersi dietro queste immagini un po' leopardiche. Allora, io voglio farvi vedere questo breve filmato, è un filmato che dura una ventina di minuti e fa parte di una serie di documentari che si chiama Link 900, che forse qualcuno ha avuto già modo di vedere, che sono stati prodotti in collaborazione fra l'Assessorato alla Cultura e Lingua Italiana, la Scuola Zelig e un gruppo di storici di cui ho fatto parte anch'io, per ricostruire un po' in 10 puntate la storia del Novecento in Alto Adige. Puntate dedicate a vari temi, ci sono le donne, c'è il ruolo dell'industria, il ruolo del turismo, ci sono stati i confini, insomma una decina di puntate. Il DVD forse si trova anche qui, ce l'avete voi in biblioteca e quindi può essere visto. L'attività industriale rappresenta senza dubbio uno degli elementi che caratterizzano l'idea di modernità. Con l'industria sono cambiate profondamente le modalità di lavoro, la qualità della vita, le possibilità di consumo e le forme di organizzazione sociale. All'inizio del Novecento l'industria in Alto Adige non è del tutto assente, ma è poco sviluppata, perché i collegamenti sono difficili, le risorse naturali poco adatte e la manodopera scarseggia. Un motivo è anche l'avversione per l'industria che la popolazione locale manifesta già a partire dal Settecento. L'organizzazione della società industriale pare infatti contrastare profondamente con gli stili di vita e l'universo culturale sudtirolese. Inoltre, l'affermarsi del settore industriale in Alto Adige viene anche osteggiata da chi teme di vedere lesi i propri interessi economici e politici, come ad esempio gli esponenti dei ceti mercantili o della proprietà terriera. È soltanto nel 1848 che viene fondata la prima vera fabbrica sul territorio altoatesino. È il cotonificio di Bolzano. Tra la fine dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale giungono anche nelle Alpi i riflessi di quel periodo di rapida trasformazione economica e culturale che fu la Belle Époque. Nascono attività industriali nel settore tessile e alimentare. Dopo il cotonificio sorgono il lanificio Mössmer di Brunico, i birrifici di Vilpiano della famiglia ebraica Schwarz e quello Forst dei Fuchs, stabilimenti come la Ringler e la Churchenthaler di Bolzano. Personaggi locali come Louis Zweig sul fronte imprenditoriale o Julius Peratona su quello politico si fanno promotori di significative innovazioni. Ma l'inizio dell'industria moderna in Alto Adige è connesso anche allo sfruttamento idroelettrico. I Posnaverke di Parcines sono una multinazionale che opera con capitali e management provenienti da fuori regione e sfrutta tecnologie di punta e risorse minerarie ed energetiche locali per produrre carburo di calcio. Utilizza una grande quantità di energia elettrica fornita dalle Eccelche, l'azienda elettrica consorziale delle città di Merano e Bolzano, che nel 1898 aveva messo in attività la centrale idroelettrica di Tell. Si trattava del primo impianto di grandi dimensioni in Alto Adige. Ma la fabbrica elettrochimica alimentata dalla centrale è causa delle prime polemiche di natura ambientale e mette in una posizione imbarazzante il comune di Merano. La città del Passirio, mentre da un lato garantisce la fornitura energetica, dall'altro deve infatti preservare dal possibile inquinamento la città, ormai da tempo affermatasi come Kurort di rilevanza internazionale. Das Stadion ist alles in Ordnung nicht. Ist das eigentlich sicher nicht eine Arbeit für jeden Mann, weil man nicht jeden eine Bereitschaft dienst. Und das heißt, die Nacht da schlafen. Samstag, Sonntag dienst. Das heißt auch, nachts da schlafen. Und man hat schon die freien Tage und man macht viele Stunden, wo man die Verhältnisse bezahlt hat. L'annessione all'Italia scatena la corsa all'accaparramento delle concessioni idroelettriche. L'Italia, povera di carbone, punta molto sull'elettricità per recuperare il ritardo che la separa dalle grandi nazioni industriali europee. Sorge così un comitato che vede riuniti esponenti di punta del mondo politico e imprenditoriale sudtirolese e i rappresentanti della grande industria elettrica italiana. L'obiettivo è ottenere concessioni per lo sfruttamento delle forze idriche locali. La centrale di Cardano, la cui realizzazione era stata ipotizzata già prima della guerra da una società germanica, al momento della sua entrata in funzione nel 1930 è l'impianto più avanzato d'Europa. L'energia viene convogliata verso la pianura padana affamata di elettricità, ma comincia anche a essere sfruttata localmente. Uno dei primi casi fu la Montecatini, che dopo aver ottenuto la concessione per la realizzazione della centrale di Marlengo, costruisce a Sinigo una fabbrica per la produzione di nitrati. Un progetto che doveva contribuire a liberare l'Italia dalla dipendenza estera per quanto riguardava i fertilizzanti, ma che aveva anche obiettivi di carattere politico. Nel settembre del 1925, in una lettera a Mussolini, il prefetto di Trento scrive: «Tutti gli operai, circa 300, saranno italiani, o provenienti dalle vecchie province, o reclutati nel Trentino. Tutte le costruzioni, gli esercizi e i negozi che eventualmente dovranno sorgere in detta località apparterranno anche non ad altri che ad italiani di razza e di sangue». Sua Altezza Reale, il Principe di Piemonte, si è recato nella zona industriale della città, compiendo un'accurata visita dei vari stabilimenti, che con un ritmo sempre più intenso di lavoro contribuiscono in maniera precipua ad assicurare la vita fiorente della città. La promozione degli insediamenti industriali in Alto Adige diventa dunque uno strumento per attirare manodopera italiana e contribuisce a ribaltare gli equilibri tra i gruppi linguistici. In questo senso, a partire dal 1934, si opera anche per la realizzazione della zona industriale di Bolzano, destinata ad ospitare rilevanti stabilimenti nel campo della siderurgia e della metallurgia, della meccanica e della lavorazione del legno, dalla Lancia alle acciaierie del gruppo Falck, dalla Magnesio all'Industria Nazionale Alluminio del gruppo Montecatini, alla Feltrinelli. Imprese che aderiscono al progetto vengono concesse agevolazioni fiscali e tariffarie e terreni a prezzi di favore su cui realizzare i propri stabilimenti. Terreni fino ad allora coltivati a frutteto e in gran parte espropriati ad agricoltori sudtirolesi. Autarchia in atto nell'Alto Adige. Una statua equestre in alluminio fuso, raffigurante il genio del fascismo, domina il maestoso ingresso della centrale idroelettrica di Ponte Gardena, inaugurata dal ministro dei lavori. Ma sarebbe fuorviante considerare la zona industriale solamente come strumento di italianizzazione. Essa fu anche espressione della politica autarchica e interventista del regime in una situazione di forte chiusura del mercato internazionale e mirava anche a sfruttare la grande disponibilità locale di risorse energetiche. Abbiamo un dopo in Stasia metto un volume per 3-4 milioni di cubic metro e abbiamo fatto questa grossa stunda noch ein Atomswerk und in Atomswerk, wo der Strom produziert wird und deshalb haben wir da die Möglichkeit, das Wasser aufzufangen im Sommer und im Winter hier noch bei Laufen Strom zu erzeugen. Die Gletscher sind zurückgekommen, wir haben es ja durch den, dass wir einen Gletscher haben, ist da sehr trotzdem ziemlich voll gekriegt. Aber wenn das viele Jahre so weitergeht, dann wird da passieren, wenn es nicht regnet, wenn es nicht schneit im Winter und es nur nicht mehr Niederschläge gibt von Regen, als dass er auch nicht mehr voll werden wird. Also statt die 43 Millionen oder die 40 Millionen, dass wir einmal 30 Millionen Kubik drin haben. Con la zona industriale cresce significativamente la presenza operaia a Bolzano. Nel 1942 gli stabilimenti danno lavoro a circa 7.000 operai. Sono ospitati con le loro famiglie nei nuovi quartieri che avrebbero dovuto contribuire a raggiungere l'obiettivo della grande Bolzano di 100.000 abitanti voluta dal Duce. Evidenti cadette circondate ognuna da un appezzamento di terreno coltivato ad orto offrono un alloggio ideale al popolo lavoratore. Accanto a questa nuova tipologia di insediamento industriale, continuano ad operare anche imprenditori locali. Sono attive fabbriche di trasformazione dei prodotti agricoli come la Zueg e la Menze Gasser, ma anche imprese che agiscono in settori più avanzati. Controllata dalla famiglia bolzanina degli Amon, dal 1925 entra in funzione a Dobbiaco la Urda Radio. Inizialmente produce componenti per la radiofonia, ma passa poi alla realizzazione di apparecchi radio completi, occupando 250 dipendenti e arrivando ad essere la settima azienda italiana nel settore. Nel dopoguerra, con la ricostruzione e la ripresa delle attività economiche, inizia un periodo di forte sviluppo che vede il settore industriale protagonista. Anche la società si modernizza, cambiano i consumi, i modi di lavoro, gli stili di vita. In Italia, in Austria e in Germania, i profondi mutamenti in atto vengono indicati con il termine miracolo economico o Wirtschaftswunder. Inizialmente l'Alto Adige partecipa con ritardo a questi processi e non senza contrasti. Vengono completati grandiosi progetti idroelettrici, importanti per garantire le risorse energetiche necessarie allo sviluppo nazionale. Uno di questi è lo sfruttamento integrale dell'alto corso dell'Adige, messo in atto dalla Montecatini in Val Venosta. Ma questi interventi portano anche gravi disagi per le popolazioni locali, come testimoniato dalla sommersione del paese venostano di Curon. Vorstellen, dass das Wasser nicht mehr zur Stromproduktion gebracht wird, vielleicht sogar zu Trinkwasser. Und sich die Wichtigkeit von den Staudern, um Strom produzieren wird in Italien und damit die nächste Zukunft sicher räumen sein. Ein Strom, die Energie, das braucht aber mehr Energie, anstatt weniger. Anche nel dopoguerra, tra la popolazione di lingua tedesca, continua a permanere una certa diffidenza nei confronti dell'industria, ancora percepita come strumento di snazionalizzazione. Ciò si traduce in una politica economica locale che presta poca attenzione alle prospettive di sviluppo del settore secondario. Un punto di svolta si ha nei primi anni 60, quando la percezione del ritardo della provincia rispetto alla crescita in atto altrove induce le forze politiche locali ad avviare un nuovo processo di localizzazione industriale, caratterizzato però questa volta dall'attenzione al ruolo della piccola e media impresa. Si vuole diffondere lo sviluppo sul territorio. Nascono concentrazioni di attività industriali in aree che prima non avevano mai conosciuto il fenomeno. Una spinta in questo senso viene anche dall'insediamento di filiali di attività operanti nelle aree di pianura prossime alle Alpi. Ma sorgono e si consolidano anche esperienze guidate da imprenditori locali che in alcuni ambiti giungono a livelli di eccellenza, come la Durst di Bressanone e la Leitner di Lipiteno, proiettandosi sui mercati internazionali. Gli stabilimenti della zona industriale di Bolzano subiscono, parallelamente alla crisi dell'economia internazionale degli anni 70, un processo di ristrutturazione. Nello stesso periodo si manifesta anche un rafforzamento del ruolo del sindacato. Abbiamo enormi problemi nelle nostre fabbriche, i problemi dei tempi, dei costi, dei salari, ma il problema fondamentale resta il problema della libertà all'interno dell'azienda. Sullo sfondo comincia poi a diffondersi una nuova sensibilità culturale e politica, per la quale i processi di sviluppo economico vengono valutati anche alla luce dei loro effetti ambientali e sociali. Con gli anni Ottanta la terziarizzazione dell'economia altoatesina diventa un fatto evidente. Cresce la quota dei servizi per quanto riguarda sia il reddito prodotto che l'occupazione. Ciò nonostante, l'industria in provincia continua a mantenere un ruolo importante e alla fine del secolo continua a produrre un quarto del valore aggiunto altoatesino e a dare lavoro a un quarto della popolazione attiva. Oggi l'attività industriale è radicata e diffusa sul territorio, non è più oggetto di scontro e contribuisce in modo importante al benessere della società locale. Sul fronte energetico, la provincia ambisce a recuperare il controllo delle centrali, che costituiranno un'importante fonte di finanziamento per il futuro dell'autonomia. L'industria stenta tuttavia a entrare a far parte dell'immagine ufficiale del paese e così dai cartelli stradali che indicano le zone produttive scompare il fumo. Mancano poi iniziative volte a recuperare il patrimonio storico del settore, quasi a voler dimenticare il ruolo significativo che l'industria ha avuto e ha ancora nella modernizzazione del territorio. Fanno vedere il Wie gesagt, so Energie, Hauptsache Strom oder allgemeine Energie, wird die Menschheit dabei mehr brauchen. Man kann als Einzelperson im Haushalt sicher weniger verbrauchen, aber im Allgemeinen wird der Energieverbrauch, sprich Stromverbrauch, stetig steigen, dadurch, dass niemand mehr verzichten will auf Geräte, auf Errungenschaften, die fein sein im Haushalt und die Wahl. Und deshalb hat die Sonnenstrom wird alle mehr gebracht, anstatt weniger. In Hinsicht darauf genügend Energie mit, durch Getreide, was sie jetzt empfangen haben, das sehe ich ja sowieso als negativ, weil um die Felder zu bewässern braucht viel mehr Wasser. Und mehr Wasser heißt weniger Wasser für Umwelt, weniger Wasser für Stromproduktion und deshalb ist das eigentlich negativ zu bewerten, weil das Wasser ist sicher uns, was in Zukunft das erste Problem ist, ist gleich genommen. Ecco, allora, questo è il tentativo che abbiamo fatto di sintetizzare in 20 minuti una storia dell'industria in Alto Adige. Come tutta la serie di 10 documentari, il filo conduttore è stato dato da questo legame con un personaggio, un ambiente dei giorni d'oggi. E può sembrare strano il fatto che abbiamo scelto un personaggio in lingua tedesca, perché se si pensa all'industria forse avremmo potuto prendere un operaio dell'acciaieria piuttosto che il guardiano, il custode della diga di Vernago. In realtà l'abbiamo fatto proprio per rompere un po' questi schemi che ci portiamo dietro. Infatti nella puntata dedicata all'agricoltura abbiamo un contadino di lingua italiana che racconta le questioni, i problemi che ha l'agricoltore oggi in Alto Adige. Poi c'è anche il fatto appunto che come custode della diga di Vernago ha a che fare con un settore che abbiamo visto essere cruciale per l'esperienza industriale in Alto Adige, cioè l'energia elettrica, e tanto tempo che ha a disposizione gli ha anche consentito di sviluppare una propria filosofia che lui ha, ma abbastanza particolare, insomma, che ha messo in luce nelle interviste che gli sono state fatte. Ecco, quello che è venuto fuori da questo film sono alcuni elementi che ci spiegano un po' le questioni cruciali, insomma, della presenza industriale in Alto Adige, e sono elementi di natura strettamente economica e elementi di natura culturale e sociale che messi insieme ci aiutano a capire quali sono state le difficoltà, quali sono state le fasi di accelerazione, quali sono stati i problemi che questo settore ha dovuto affrontare. L'origine dell'industria in Alto Adige è un'origine decisamente problematica. È problematica per la conformazione particolare del territorio, un territorio in cui il terreno è un bene scarso per eccellenza, è difficile che si possano utilizzare ampie aree per l'impianto di attività industriali. In una realtà in cui gran parte del lavoro è lavoro occupato in un'agricoltura che richiede un contributo del lavoro umano, quindi dove la meccanizzazione è estremamente difficile date le caratteristiche del terreno, il prezzo locale dei beni alimentari è particolarmente elevato, i collegamenti con l'esterno sono difficili. Questi sono elementi in qualche modo che rendono complicata la localizzazione industriale nella realtà dell'Alto Adige, ma anche in altre realtà di montagna. Sono gli stessi problemi che noi troviamo in molte realtà delle Alpi svizzere, delle Alpi francesi e delle Alpi italiane. E questo proprio si aggiunge un'altra questione, che è la questione di tipo culturale, cioè la percezione che il nuovo modello di produzione industriale incentrato sul sistema di fabbrica sia qualcosa che contrasta profondamente con quelli che sono i valori radicati sul territorio. Lo stretto legame che si crea fra terra e presenza umana, che in qualche modo è simboleggiato dal maso, dal Hof, e quindi da questa cellula fondamentale della società locale, rischia di essere rotto dai nuovi modelli di insediamento e di socializzazione che il sistema industriale mette in atto. C'è quindi una resistenza culturale che viene portata avanti, per esempio, in maniera molto netta da parte del clero in Alto Adige. Il clero, che ha un forte ascendente, un forte ruolo nella società locale, vede nel processo di industrializzazione un pericolo per l'integrità di quelli che sono i costumi e i valori morali del territorio. Dietro però ci sono anche interessi di natura economica. I gruppi che avevano la leadership economica sul territorio, in particolare penso ai grandi commercianti, penso ai proprietari agricoli, ai rappresentanti dei proprietari agricoli, anche costoro avevano l'interesse a frenare l'avanzata del sistema industriale. E questo è un problema che non ha a che fare solo con l'industria come la conosciamo noi, come nasce dalla rivoluzione industriale dall'Ottocento in avanti, è un problema che si pongono già nella seconda metà del Settecento. Già nella seconda metà del Settecento la questione se valga la pena impiantare attività in Alto Adige o meno viene discussa, e c'è una forte opposizione da parte dei grandi mercanti locali che dicono no, non possiamo impiantare quell'industria, perché impiantare quell'industria significherebbe, come si faceva allora, creare un sistema protezionistico. Allora l'impianto dell'industria veniva accompagnato da barriere tarifarie ai confini, da dazi che dovevano proteggere il mercato locale dai beni che venivano da fuori, per consentire a queste imprese che nascevano di avere un mercato protetto. E questo avrebbe significato la fine del commercio di transito attraverso l'Alto Adige, che era uno degli elementi di ricchezza, pensate al ruolo che hanno avuto le fiere di Bolzano in passato, insomma di questa terra. Quindi abbiamo difficoltà oggettive legate alla conformazione geografica, abbiamo resistenze di tipo culturale, abbiamo interessi di tipo economico che rendono difficile l'adozione di questo sistema. Con la seconda metà dell'Ottocento qualcosa comincia a cambiare. Abbiamo visto quanto tarda sia l'adozione della produzione di fabbrica in Alto Adige. Il primo vero stabilimento industriale è il cotonificio di Bolzano, che sorge solo nel 1848. E anche per impiantare questo stabilimento abbiamo bisogno di imprenditoria che viene da fuori, perché una parte importante del management e del capitale arriva dal Vorarlberg, da questa provincia austriaca ai confini con la Svizzera, che aveva già sviluppato un proprio settore tessile particolarmente rilevante. Gradualmente cominciano ad affermarsi alcune attività che però radicano soprattutto in settori che in qualche modo sono legati alle produzioni tradizionali. Pensiamo ai birrifici, pensiamo alle attività di trasformazione dei prodotti agricoli. Sono tutte attività sì industriali, ma che in qualche modo mantengono un contatto con quella che è l'attività radicata sul territorio. Anche qui è interessante la presenza di imprenditori stranieri. Una famiglia di cui si sa abbastanza poco, ma che ha avuto un ruolo importante, è una famiglia ebraica, sono gli Schwarz, che vengono anche questi dal Vorarlberg, che mettono in piedi una banca molto importante a Bolzano, che finanzia la costruzione di linee ferroviarie, delle piccole linee a scartamento ridotto che collegano le località turistiche, aprono un birrificio a Vilpiano e finanziano poi anche la costruzione in Trentino della linea ferroviaria che collegava Mori ad Arco e Riva. C'è poi la Forst di Foresta, che continua ancora oggi la sua attività, e altre piccole imprese che nascono sul territorio. Ma il tessuto economico resta sostanzialmente agricolo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale la maggior parte della popolazione attiva in Alto Adige è occupata in agricoltura. Sarà solo a cavallo tra gli anni 50 e 60 che ci sarà il passaggio del peso dall'agricoltura all'industria e ai servizi contemporaneamente. Una funzione di slancio in qualche modo viene data dalla disponibilità di risorse energetiche. Il Trentino Alto Adige, in generale l'area alpina, era rimasta indietro sui processi di sviluppo industriale anche perché mancava di quella che era la risorsa energetica primaria della rivoluzione industriale, come era venuta diffondendosi dall'Inghilterra, ovvero sia il carbone. L'acqua alpino ha pochissime disponibilità di carbone, l'Italia nel suo complesso ha pochissime disponibilità di carbone, e questo costituisce all'inizio del processo di industrializzazione un freno notevole alla trasformazione del sistema economico. Importare il carbone era estremamente caro. Il problema non era solo il carbone in quanto tale, il problema era anche legato al fatto che le principali tecnologie di produzione, pensiamo al settore siderurgico ma anche in quello chimico, erano tecnologie che erano state sviluppate in paesi che avevano una grande disponibilità di carbone, e quindi questi processi tecnologici adottavano carbone in grande quantità, e questo naturalmente costituisce un grosso problema per i paesi che di questa risorsa ne avevano in quantità limitate. Ora, con gli anni 80 dell'Ottocento comincia a prendere piede l'energia elettrica, un settore che si evolve molto rapidamente e che consente in qualche modo, fa intravedere ai paesi che erano rimasti indietro nel processo di industrializzazione per questa loro debolezza sul fronte delle risorse energetiche di recuperare il terreno perduto. L'Italia, in particolare i paesi dell'acqua alpino, dispongono di salti d'acqua che consentono di produrre energia in grande quantità, e questo diventa la chance in qualche modo per recuperare sugli altri paesi. Si sviluppano anche tecnologie industriali che utilizzano l'energia elettrica al posto del carbone, e nel giro di pochi anni quella dell'energia elettrica diventa un'industria estremamente importante in Italia. In Italia nasce la Edison, che sarà la grande protagonista dell'industrializzazione del settore elettrico nell'area lombarda, ma nascono altre grandi compagnie: la società idroelettrica Piemonte nelle Alpi occidentali, la società adriatica di elettricità, la SADE invece per quanto riguarda le Alpi orientali, e poi altre compagnie lungo lo stivale. In Trentino Alto Adige, nel periodo in cui questa terra è ancora sotto dominazione austriaca, ci sono alcune esperienze importanti che non nascono tanto da privati quanto da soggetti pubblici. È il consorzio fra i comuni di Bolzano e Merano che dà luogo al primo impianto industriale importante di produzione dell'energia elettrica. L'ECVER, che è quella che oggi è l'azienda energetica, danno luogo al primo impianto, che nasce nel 1898, è l'impianto di Tell, che è il primo moderno impianto di produzione idroelettrica a Bolzano e in Alto Adige. E legato a questo impianto c'è anche la nascita di quella che potremmo definire la prima industria in senso moderno, avanzata tecnologicamente, che sorge in Alto Adige, che sono i Bosnaverche, che nascono a Parcines per la produzione, attraverso un processo elettrochimico, di carburo di calcio. Le due cose, la costruzione della centrale e la nascita dello stabilimento, vanno in simbiosi. Perché? Perché per costruire un impianto idroelettrico che fosse efficiente dal punto di vista tecnologico e che consentisse dei ritorni sufficienti dal punto di vista finanziario per coprire l'investimento, perché era un investimento estremamente rilevante per la società dell'epoca, era necessario che ci fosse un grosso acquirente di energia che garantisse un certo flusso di entrate per la società che gestiva l'impianto. E quindi la costruzione della centrale viene decisa in parallelo alla ricerca di un partner industriale che potesse sfruttare questa energia. E questo partner industriale è questa società multinazionale, i Bosnaverche, che hanno impianti qua, ma ce li hanno anche in Bosnia, utilizzano capitale viennese, capitale tedesco, e danno luogo a questa attività che produce carburo di calcio e poi successivamente produrrà ferro silicio e via di questo passo. Intorno a questa prima esperienza industriale ruotano i temi che poi saranno i temi anche dello sviluppo industriale in generale in Alto Adige. Uno è questo tipico dell'energia, di cui vi dicevo, della centralità dell'utilizzo dell'energia per la produzione, ma un altro anche il tema dei problemi di inserimento di queste imprese nel contesto in cui vengono ad operare. Abbiamo visto nel filmato come il comune di Merano si trovasse in questa posizione ambigua: da un lato era il comproprietario dell'azienda che forniva l'energia alla fabbrica e quindi aveva tutto l'interesse affinché la fabbrica continuasse ad acquisire questa energia, perché era fondamentale per garantire l'equilibrio finanziario dell'impresa; dall'altro però i venti che soffiavano dalla Venosta portavano le esalazioni di questa fabbrica su Merano, e la cosa non andava certamente bene per un centro che aveva fatto del turismo uno dei suoi elementi importanti. Non è un caso che la fabbrica elettrochimica che sarebbe stata costruita successivamente, cioè la Montecatini di Sinigo, sia stata costruita a sud di Merano, quindi sotto vento per intenderci, ecco, per evitare che i turisti fossero infastiditi dall'inquinamento. Ecco, le cose poi naturalmente cambiano in maniera radicale nel momento in cui c'è l'annessione dell'Alto Adige all'Italia. Le cose cambiano anche perché se l'Alto Adige prima, il Tirolo meridionale, era parte di una realtà economica che disponeva di grandi risorse di carbone, la lignite soprattutto che veniva dall'area boema, dall'area morava, era una risorsa energetica importante nell'impero asburgico, e quindi lo sviluppo dell'energia idroelettrica tutto sommato era stata un interesse marginale per il grande predicante capitale austriaco. Con l'annessione all'Italia invece le risorse idroelettriche, idriche del territorio altoatesino diventano estremamente importanti, e non a caso, insomma, appena finita la guerra c'è subito l'interesse delle grandi compagnie, delle grandi società elettrocommerciali italiane a mettere un piede nella realtà altoatesina. Qualcuno addirittura è uno dei rari esponenti comunisti della storia altoatesina, Silvio Flora, che era un tipografo locale, ha sostenuto a suo tempo che il vero motivo per cui l'Italia voleva mettersi all'Alto Adige era la disponibilità di energia elettrica. Ora, questa è naturalmente una forzatura, un'adozione un po' acritica di un'interpretazione di tipo leninista, diciamo, no? Della guerra e delle sue conseguenze. Però, senz'altro, a partire dal 1916 le grandi compagnie elettrocommerciali italiane cominciano a ragionare su quelle che possono essere le possibilità di sfruttamento del territorio sudtirolese. E se voi leggete cosa scrive Tolomei sulle pagine dell'archivio per l'Alto Adige, questo aspetto del legame fra energia e industria viene messo sul piatto della bilancia per dire perché l'Italia deve mettersi. Inizialmente, una volta finita la guerra, inizialmente nasce una collaborazione piuttosto stretta e che dura anche diversi anni fra esponenti politici ed economici dell'elite locale su tirolese e i rappresentanti delle grandi società elettrocommerciali. C'è un interesse comune a promuovere l'insediamento di attività di sfruttamento idroelettrico in Alto Adige, anche perché la legge nazionale prevede che ci sia un diritto di prelazione da parte dei comuni. I comuni hanno diritto di prelazione rispetto ai soggetti privati nel chiedere concessioni per lo sfruttamento idroelettrico. Allora, le grandi compagnie italiane hanno bisogno del sostegno della sponda dei comuni sudtirolesi, e questa sponda arriva. Allora, il sindaco di Merano, il sindaco di Bolzano, gli Schwarz e altri soggetti imprenditoriali sudtirolesi danno il loro appoggio a questo progetto, e si crea questo comitato misto italiano-sudtirolese per l'ottenimento di queste concessioni. Queste concessioni vengono ottenute, così vengono ottenute le concessioni per la costruzione della centrale di Cardano, vengono ottenute le concessioni per la costruzione della centrale di Ponte Gardena, vengono ottenute le concessioni, qua però poi la storia è un po' diversa, per la costruzione della centrale di Marlengo che alimenterà la Monte Catini. A un certo punto spariscono i soggetti sudtirolesi, restano solo le società elettrocommerciali italiane. Questo è un po' un buco nero che c'è nella ricostruzione della vicenda. Non si capisce esattamente quale sia stata la contropartita di cui ha goduto la parte sudtirolese. Presumibilmente c'è stato un trasferimento finanziario rilevante, perché altrimenti la cosa non si spiegherebbe. Però su questa cosa bisognerebbe fare qualche approfondimento. In che anno è successo? Stiamo parlando degli anni 20. No, ma questa... 1925 al 1926. Sì, sì, sì, sì, sì. Non pensavo all'ultimo momento. No. 60, quando si poteva capire che... No, poi la vicenda comunque dell'industria elettrica è una vicenda in cui queste intersezioni continuano a esserci fino ad arrivare ad oggi. Ecco, avete visto nel filmato ancora, il filmato del 2008, il testo è stato scritto nel 2007, per cui ci sono alcuni aggiornamenti da fare. Quando si dicevo la provincia tende ad acquisire gli impianti, ormai li ha acquisiti, insomma, gli impianti sono acquisiti, e paradossalmente questo che è stato un elemento sempre di conflittualità in Alto Adige, pensate, insomma, gli attentati degli anni 60 sono stati fatti ai tralicci, che erano il simbolo in qualche modo dell'occupazione, della colonizzazione economica del territorio. Oggi questa stessa risorsa diventa un asset, un attivo estremamente importante per quello che sarà il finanziamento futuro dell'autonomia. Non è un caso che il Trentino abbia fatto la stessa scelta. In un contesto in cui il finanziamento alle autonomie locali diventa sempre più incerto, il fatto di poter disporre di una industria che produce reddito in grande quantità come l'industria elettrica è senz'altro una garanzia che consente prevedere flussi finanziari positivi per l'autonomia in futuro. Dicevo, comunque torniamo indietro all'annessione all'Italia. Allora, c'è questo interesse che viene manifestato dalle grandi compagnie nazionali, la Montecatini ottiene la concessione per la centrale di Marlengo, la società idroelettrica Piemonte ottiene la concessione per la costruzione della centrale di Cardano, e la centrale di Cardano diventa l'impianto, nel periodo in cui è stato costruito, l'impianto più avanzato d'Europa per quanto riguarda la produzione di energia idroelettrica, sia per le opere di captazione, di convogliamento delle acque, che poi per la tecnologia che è stata usata per la produzione. Altissima tensione che consente di trasmettere questa energia a distanza. I protagonisti locali quindi sono grandi compagnie elettrocommerciali e grandi produttori industriali come la Montecatini. La Montecatini era meno interessata a vendere l'energia in giro, come facevano invece le società idroelettriche Piemonte e la Edison, erano più interessati ad avere energia per i propri impianti industriali come quello di Sini. Arriviamo finalmente alla zona industriale, 1934-1935. Quali sono i motivi che portano alla creazione della zona industriale? Un motivo è un motivo di natura essenzialmente, squisitamente politica. Noi andando a vedere, a leggere le carte che testimoniano le valutazioni politiche dell'epoca, notiamo una certa frustrazione da parte del governo locale, del governo fascista locale, su quelli che sono i risultati della politica di italianizzazione del territorio. In qualche modo c'era stata la convinzione alla fine della Prima Guerra Mondiale di riuscire a penetrare, diciamo, sul territorio con una politica di assimilazione di tipo culturale, essenzialmente, che in qualche modo trasformasse i sudtirolesi in italiani o almeno in mezzi italiani. Insomma, questa politica risulta estremamente difficile, perché la compattezza della popolazione sudtirolese, l'orgoglio, l'autocoscienza della popolazione sudtirolese è estremamente forte, quindi questa politica di penetrazione si rivela molto inefficace, anche perché, questo c'è da dirlo, insomma, hanno messo in luce ricerche recenti, i funzionari che vengono mandati in Alto Adige per mettere in atto questa politica a livello di amministrazioni comunali, amministrazione provinciale, eccetera, non sono sempre i migliori che sono disponibili sulla piazza. Molto spesso, insomma, l'Alto Adige viene visto come una sorta di punizione dove vengono mandati i soggetti meno capaci. Ci sono però dei soggetti di punta, in qualche modo, sotto il profilo della capacità economica, e tra questi vi è senz'altro il prefetto Mastro Mattei, che si troverà a guidare le sorti della provincia di Bolzano nella seconda metà degli anni 30. Mastro Mattei è di formazione economica, è una persona che è presente nel consiglio di amministrazione di alcune grandi società industriali italiane e sostiene l'idea che per l'italianizzazione dell'Alto Adige è necessario cambiare gli equilibri della popolazione. Bisogna portare italiani in Alto Adige, e per fare questo però bisogna creare occasioni di lavoro, e la realizzazione di impianti industriali può essere un'importante occasione di lavoro da questo punto di vista. Quindi la zona industriale diventa in qualche modo il cavallo di Troia con cui il governo fascista porta avanti, cambiandola, la sua politica di italianizzazione del territorio. Però attenzione, questo non è l'unico motivo. Sarebbe sbagliato, come è stato fatto da parte della storiografia per anni, pensare che l'italianizzazione sia l'unico motivo della creazione della zona industriale di Bolzano, anche perché altrimenti non si spiegherebbe la persistenza delle attività industriali, di alcune attività industriali. nessun industriale sarebbe stato convinto a creare un impianto in una realtà assolutamente antieconomica, per quanto forti potessero essere le pressioni esercitate dal fascismo. Quindi alla necessità politica si uniscono anche fattori di natura economica. Il fattore di natura economica principale era appunto la disponibilità di energia a prezzi di favore. E non è un caso che alcuni tra i più grandi stabilimenti che si insediano nella zona di Bolzano siano stabilimenti ad alta intensità energetica. E ad alta intensità energetica sono ad alta intensità energetica le acciaierie che utilizzano la corrente elettrica per la fusione del rottame, e ad alta intensità energetica l'industria nazionale dell'alluminio che utilizza l'energia elettrica per i suoi processi di produzione, e ad alta intensità energetica anche la magnesio che opera con tecnologie elettrochimiche nella sua attività. Quindi la localizzazione a Bolzano si spiega anche con questa valutazione. Effettivamente la presenza industriale della grande industria a Bolzano cambia il quadro sociale ed economico della città. Come avete visto già negli anni 40 erano 7.000 circa gli operai che lavoravano nella zona industriale, 7.000 operai vuol dire circa 7.000 famiglie insomma, che arrivano a Bolzano. Bolzano passa nel giro di pochi decenni da una città che aveva 25.000 abitanti a una città che arriva poi a 50, 70 e finalmente poi negli anni 60 a 100.000 abitanti. E in questa crescita demografica l'industria ha avuto senz'altro un ruolo significativo. Ora, il fatto che l'industria fosse inizialmente qualcosa che contrastava con la cultura locale e successivamente in qualche modo sia stato uno degli elementi della politica di italianizzazione ha continuato a far sì che fosse percepita in maniera negativa, questo ramo di posizione fosse percepito in maniera negativa da gran parte della popolazione locale, soprattutto viene utilizzato anche come strumento di polemica politica. Contro l'industrializzazione si è costruita una polemica politica che aveva naturalmente una sua spiegazione, una sua giustificazione, ma che contribuisce a mantenere, diciamo, questa avversione nei confronti dell'industria all'interno della società locale. Anche se ci sono imprenditori locali che hanno portato avanti esperienze imprenditoriali estremamente interessanti. Abbiamo visto la Menzegasser, la Zueck, ci sono state anche attività singoli imprenditori come Luis Zueck, per esempio, che è un innovatore che mette in campo alcune innovazioni estremamente importanti nella costruzione delle funivie, per esempio. Le tecnologie che vengono sviluppate da Luis Zueck sono tecnologie che poi vengono adottate dalle funivie, per quanto riguarda l'impianto frenante in particolare, dalle funivie di tutto il mondo. E poi c'è un'esperienza che in qualche modo la dice lunga sul fatto, su come l'attività industriale in qualche modo sia stata marginalizzata dalla memoria collettiva locale, che è quella della Onda Radio. Quella della Onda Radio è una storia particolarmente interessante, perché è un'impresa ad alto contenuto tecnologico, che è sulla frontiera tecnologica dell'epoca, perché la produzione radiofonica era la frontiera tecnologica dell'epoca, che sorge in un luogo assolutamente improbabile dal punto di vista industriale come Dubbiaco. Allora, nessuno di noi può pensare che a Dobbiaco negli anni 30 ci fosse un'impresa che produceva alla frontiera tecnologica dell'epoca e che era la settima impresa radiofonica italiana. I prodotti della Onda Radio erano prodotti estremamente apprezzati per il loro contenuto tecnologico e in questa esperienza era coinvolta una grande famiglia bolzanina come gli Amon, che avevano fornito gran parte del capitale per portare avanti questa cosa. Non solo, ma la storia della Onda Radio è una storia estremamente interessante, perché nel 1940 lo stabilimento della Onda Radio viene trasferito a Como. A Como. Perché viene trasferito a Como? Perché Onda Radio produce ricetrasmettenti per l'esercito. La localizzazione di Dobbiaco è una localizzazione che da un lato è un po' in crisi, perché una parte della manodopera aveva optato per la Germania e quindi rischiava di andare perduta, e poi è troppo vicina alla Germania e non si sa mai come possono andare le cose, per cui si prende la Onda Radio e il commendator Gualtiero Ammon, come veniva chiamato, Walter Ammon, come veniva chiamato nella corrispondenza ufficiale dell'epoca, che inaugura lo stabilimento a Como, che produce anche appunto per utilizzo, per scopi militari. E anche dopo la guerra è interessante la vicenda dell'Onda Radio, Perché l'onda radio richiede nel 1948 all'amministrazione italiana che gestiva i fondi del piano Marshall, gli americani danno soldi per rilanciare l'attività industriale in Alto Adige, in Italia, in Europa, richiede fondi per iniziare la produzione di televisori. Poi dopo le vicende finanziarie sono un po' complesse, alla fine la famiglia Hammond cede la quota e l'esperienza dell'Onda Radio si conclude, però è stata comunque un'esperienza industriale locale che è riuscita ad essere attiva con successo all'interno di un settore tecnologico avanzato, e questo in qualche modo stride un po' con l'immagine della realtà economica locale che tutti abbiamo. Come bisogna sottolineare che a un certo punto questa avversione politica nei confronti del modello industriale viene meno. Siamo all'inizio degli anni 60. Esce sul Dolomiten un articolo che si intitola Aufbruch. In qualche modo Aufbruch possiamo tradurlo come rinnovamento, rinascita, è qualcosa che ha a che fare con un nuovo inizio. Questo articolo è l'inizio di un cambiamento nella politica industriale portata avanti dal partito di maggioranza locale, dall'SVP e dalla provincia. Ci si rende conto che i settori tradizionali non sono sufficienti per far sì che l'economia altoatesina tenga il passo che in quel momento stavano tenendo le economie circostanti. L'Italia conosce il miracolo economico, la Germania conosce il miracolo economico, una parte importante dell'Austria si sviluppa a tassi che sono superiori a quelli della media europea, l'Alto Adige resta indietro al punto che per la prima volta nella storia di questa terra c'è un consistente flusso migratorio verso l'est. C'erano già stati nella storia, ci sono, se andiamo a cercare alcuni episodi di migrazione, ma sono limitati, molto più limitati rispetto al vicino Trentino, per esempio. Ma negli anni 50 comincia ad esserci questa necessità di andare a cercare lavoro fuori, perché manca localmente la possibilità di creare occupazione su larga scala. Il governo provinciale comincia quindi a promuovere l'insediamento industriale. Non è più il governo fascista con le sue intenzioni di snazionalizzazione del territorio, ma è il governo locale guidato dal Volkspartei che dagli anni 60 promuove una politica di localizzazione industriale. Chiaramente una politica che ha dei tratti diversi da quella che era stata la politica portata avanti dal fascismo in precedenza. È una politica che promuove una localizzazione diffusa degli impianti industriali sul territorio, quindi le zone industriali vengono create a Brunico, vengono create a Lana, vengono create a Valdaura, quindi c'è l'idea che l'industria debba andare sul territorio per evitare che la popolazione debba abbandonare i luoghi d'origine. Quindi per mantenere tutto sommato quel tessuto sociale che costituiva la base politica e culturale a cui faceva riferimento il partito di maggioranza. Devono essere imprese di dimensioni medio-piccole, quindi che non abbiano un impatto eccessivo sul quadro economico e culturale, anche paesaggistico del territorio, e naturalmente viene fatto una grande battage pubblicitario per queste iniziative nell'area di lingua tedesca. Una parte importante dei capitali che arrivano in questa realtà sono capitali di provenienza germanica, austriaca e svizzera. Effettivamente queste scelte che vengono prese all'epoca hanno un ruolo importante, giocano un ruolo importante nel garantire un passaggio poco traumatico da una società che era stata a lungo incentrata soprattutto sull'agricoltura a una società come quella odierna, dove gran parte dell'occupazione, gran parte del reddito viene prodotto dai servizi. E c'è una fase in cui l'industria arriva ad occupare, dal lavoro e produrre reddito, per circa il 30% nella società locale, e quindi svolge una funzione estremamente, estremamente importante. Ecco, quindi vediamo che in realtà le facce che stanno attorno, diciamo, all'esperienza industriale sono facce diverse, ci sono protagonisti diversi che a volte restano nell'ombra di quella che è l'immagine ufficiale che noi abbiamo dell'esperienza industriale in Alto Adige. E in questo gioco si inserisce anche l'esperienza particolare delle acciaierie di Bolzano, che è un'esperienza di una grande impresa con capitale italiano, capitale era quello della famiglia del gruppo Falck, che si insedia in Alto Adige su invito del governo, ma anche per poter utilizzare le grandi disponibilità di energia elettrica del territorio, e che svolge un ruolo estremamente importante nella costruzione della comunità italiana di Bolzano. E questo perché, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, la politica che viene adottata dalla Falck nel gestire il suo stabilimento è una politica che va al di là delle scelte tecnologiche e delle scelte economiche che riguardano strettamente lo stabilimento. È una politica che tende anche a sostenere i processi di socializzazione dei propri dipendenti attraverso la messa in atto di tutta una serie di servizi. Insomma, lo Stato, quello che offre oggi lo Stato sociale, in parte all'epoca veniva offerto dalla grande impresa in termini di assicurazioni sanitarie, in termini di borse di studio, in termini di politiche edilizie per la costruzione degli alloggi e via di questo passo. Un'impresa come le Acciaierie di Bolzano, che arrivano nel 1942 ad occupare 1000 dipendenti, arrivano nel 1978 ad occupare 1840 dipendenti su una popolazione di 100.000 abitanti, significa insomma che una parte non irrilevante dei redditi delle famiglie bolzanine derivava da questo stabilimento. È chiaro che si tratta di un modello di industria che in qualche modo sconta l'evoluzione successiva che ha avuto il settore. Noi dobbiamo pensare che dagli anni 70 in avanti la concorrenza a livello internazionale sul settore della produzione dell'acciaio è una concorrenza che cresce a ritmi vertiginosi. Se noi guardiamo oggi quali sono i dati di produzione dell'acciaio a livello internazionale, l'Italia si trova al decimo posto per produzione d'acciaio. Al primo posto, con una produzione che è oltre la metà del totale prodotto nel mondo, c'è, indovinate un po', la Cina. Sì, ma li sfrutta. Sfrutta anche. Sì, chiaramente, chiaramente. Ma importa anche. Sì, sì. C'è la Cina, al secondo posto Giappone, Stati Uniti, Russia, India, Corea del Sud, settimo posto la Germania, ottavo posto l'Ucraina, nono posto il Brasile, decimo posto l'Italia. Comunque tra i paesi europei l'Italia se la cava bene, è subito seconda dietro la Germania, mentre i tradizionali produttori d'acciaio, pensiamo al Regno Unito, pensiamo alla Svezia, pensiamo alla Francia, pensiamo al Belgio, restano indietro all'interno di questa classifica. È anche interessante andare a vedere le maggiori aziende produttrici d'acciaio nel mondo. Se andiamo a vedere queste, il primo gruppo europeo è un gruppo italiano, ed è il gruppo Riva, che si colloca al 15° posto, prima della ThyssenKrupp, che è al 17°. Allora, ma Riva è quella dei motoscafi? No, è un altro ramo. Producono altre cose un po' più pesanti dei motoscafi. Questo per dire però che dal momento di massima occupazione dell'acciaieria ad oggi il quadro internazionale è cambiato. In quegli anni c'è stata anche la crisi energetica che ha inciso pesantemente sui costi di produzione. Il gruppo Falck aveva intrapreso già un processo di innovazione. Tra gli anni 70 e gli anni 80 viene costruito il nuovo laminatoio, per esempio, che doveva essere un'innovazione importante che aumentava notevolmente la produttività dello stabilimento. Da quel momento in poi la parabola dell'occupazione è una parabola discendente, anche se la produzione continua a restare su livelli estremamente importanti. Un grosso problema è in realtà il fatto che la famiglia Falck comincia a disimpegnarsi dalla produzione dell'acciaio. E questa è una vicenda che è legata anche alla successione generazionale che c'è all'interno dei Falck. Quando scompaiono Giovanni prima e poi Bruno Falck, che erano stati i due personaggi che avevano portato avanti il gruppo dalla seconda guerra mondiale fino agli anni 70, e la nuova generazione dei Falck, Giorgio e Alberto, per intenderci, due cugini che portano avanti il gruppo, cominciano a guardare altrove. Sono due personaggi molto diversi tra di loro, e anche interessante. Da un lato abbiamo Giorgio Falck, che è un personaggio brillante, mondano, che guarda fuori. Abbiamo dall'altra parte Alberto Falck, invece, che è un personaggio molto, molto più serio, che colleziona libri, miniature medievali, libri antichi. Insomma, sono due persone che poco in sintonia anche sulla gestione dello stabilimento. Ci sono poi delle vicende familiari dolorose, come la perdita di Giovanni Falck, per esempio, un giovane che raccontano gli operai che era venuto a Bolzano a fare esperienza, ma non a fare esperienza come dirigente industriale, ma a lavorare in fabbrica per capire quali erano i processi, e che muore poi nel corso di un'immersione all'isola d'Elba. Tutti questi fattori e valutazioni di carattere finanziario porteranno la famiglia Falca a cedere lo stabilimento di Bolzano alla metà degli anni 90 e gradualmente a cedere tutte le attività che aveva nel campo dell'acciaio. La Falck, che era stata l'impresa più importante, l'impresa siderurgica privata più importante d'Italia, negli anni 70 era la prima impresa siderurgica privata d'Italia ed aveva una storia secolare di presenza nelle attività. Sì, ma anche passando per Milano non c'è più. Esatto. Allora, Sesto San Giovanni, che era la Stalingrado d'Italia, era il comune della Lombardia che aveva il più alto tasso di voti al Partito Comunista, perché c'era una concentrazione operaia molto forte ed era una realtà dove la Falck aveva realizzato importantissimi stabilimenti di produzione siderurgica. A Sesto San Giovanni gli impianti di produzione della Falck vengono smantellati, ceduti, trasformati in altre attività. Oggi la famiglia Falck è molto attiva nel settore delle energie alternative. Energie alternative perché quello viene visto come un settore con prospettive di sviluppo. Hanno mantenuto una parte degli impianti elettrici che erano stati costruiti prima dalla Falck per alimentare gli impianti industriali, o li utilizzano in un'altra chiave, però l'evoluzione che c'è stata all'interno della famiglia è stata uno degli elementi che spiega perché l'attività delle acciaierie passa di mano a Bolzano. Nel passaggio di mano un ruolo importante c'è la provincia acquisisce, compra i terreni su cui sorge l'impianto di produzione e subentra un nuovo soggetto industriale che è la Valbruna della famiglia Menduni, che oggi porta avanti, tra mille difficoltà che tutti conosciamo, questo progetto industriale che ha avuto un ruolo in passato, un ruolo importante per Bolzano, ma che è auspicabile che continui a mantenerlo questo ruolo, se non altro per il fatto che sono due ordini di considerazioni da fare. Il primo, naturalmente, è quello che ci viene alla mente a tutti, è il dato occupazionale, cioè il fatto che i 500 dipendenti circa ancora che sono attivi all'interno delle acciaierie di Bolzano troverebbero difficilmente una ricollocazione nel contesto occupazionale che c'è oggi. Sono lavoratori che hanno una specializzazione di un certo tipo che è difficilmente spendibile in altri ambiti. Non possiamo fare 500 magazziniere, insomma, da questi lavoratori che hanno una certa qualifica. C'è una componente importante inoltre di questa forza lavoro che ha raggiunto una certa età, per cui il ricollocamento diventa ancora più difficile. Ma l'altra considerazione, al di là del dato occupazionale, che è importante, è che comunque il tessuto economico locale risulterebbe impoverito se dovesse chiudere la grande impresa in attuale. Noi tutti possiamo essere d'accordo sul fatto che comunque la grande impresa inquini, che sia rumorosa, che possa essere fastidiosa per certi aspetti, che possa costituire anche un ambiente di lavoro pericoloso per molti versi, perché è inutile idealizzare, insomma, una realtà dove sappiamo che questi problemi c'erano. Però immaginare una società contemporanea in cui la grande impresa non sia presente significa in realtà porre qualche elemento di rischio sulle possibilità di sviluppo futuro. E andando a vedere quella che è stata, insomma, la parabola dello sviluppo industriale in Alto Adige e all'interno di questo il ruolo che hanno avuto le acciaierie, forse questa è una riflessione che bisognerebbe fare anche in sede pubblica. Ecco, questa è un po' la storia, insomma, che vi ho voluto raccontare per spiegare come questa esperienza delle acciaierie si inserisca all'interno di una più lunga storia, insomma, dello sviluppo industriale. Come la mette con la vita dei lavoratori? Io sono andato a conferenza sull'amianto e ci sono dal 72, quando è uscita la legge dell'amianto, ci sono state da parte dell'industria, dei proprietari, ci sono stati dei miglioramenti, però gran parte dell'amianto è ancora presente all'interno della ditta. Certo, questi sono grossi problemi. Allora, i signori che stanno seduti dietro di lei potrebbero raccontare le storie sui problemi della sicurezza e su quali sono state anche le trasformazioni. Io lavoro al Vieco, Ok, quindi lei vive direttamente anche questa. La situazione al Vieco è uguale, solo che vista da un altro punto di vista, perché noi abbiamo John Agnelli, John Elkan, che è proprietario, e quell'altro che fa occhiali, su John e Lapo, la strana coppia. È come la storia di Falco. Sì, in qualche modo sì, forse c'è un certo parallelismo fra i due, e speriamo che la fine sia un po' diversa, no? Rispetto a come sono andate le cose sulla Falco. Ma l'Iveco produce dei beni che sono sempre richiesti dal mercato. No, per cui perché se subentra l'esercito europeo, su questo non sono in grado di fare previsioni, però insomma. No, la questione della sicurezza è una considerazione importante, no? Perché noi possiamo sottolineare gli aspetti positivi naturalmente che ha avuto la presenza della grande industria a Bolzano, cioè il fatto che comunque sia stato un mezzo di socializzazione. Quello che ricordavo all'inaugurazione della mostra era che nel sentire le testimonianze degli operai, quello che veniva messo in luce era sì la difficoltà, la pesantezza del lavoro di fabbrica, ma anche una certa parte di orgoglio di appartenere a quel tipo di esperienza, industriale. Sullo sfondo resta il fatto però che le condizioni di lavoro erano condizioni decisamente pesanti. Se noi andiamo a vedere le fotografie delle condizioni di lavoro negli anni 30 e negli anni 40, insomma ci meravigliamo di quali fossero le condizioni all'interno delle quali lavorassero. Oggigiorno non è più possibile perché la scuola, l'evoluzione della società non ci permette più, cioè se metti un boccia uscito da scuola che non accetta più certe condizioni. È vero, all'epoca certe cose si accettavano anche perché quello che c'era prima era molto peggio. No, perché non sapevano, ci hanno fatto vedere il miele, vogliamo il miele. Sì, ma si arrivava da una situazione in cui il miele ce lo sognavamo, nel senso non sapevamo neanche che esistesse il miele. Certo, e quindi questo, i processi di sviluppo economico sono fatti così, si parte, ci sono dei costi e noi nel valutare a mente fredda queste cose dobbiamo tener conto che i costi sono stati importanti. La realizzazione delle centrali idroelettriche è costata decine di morti, perché era un lavoro difficile. C'è stato un paese sommerso. Sì, lì non è morto nessuno, però quello è anche un costo importante. No? Costo importante, pensate. In Egitto, quando hanno dovuto trasportare decine e decine di opere pubbliche. Pensate allo shock, insomma, lo shock culturale esistenziale che hanno avuto le persone che hanno vivevano a Curone, che hanno dovuto abbandonare la loro terra. Però questo investimento oggi consente di produrre una ricchezza che è una ricchezza per tutti, da questo punto di vista, che la proprietà. Sì, ma a quelli dei paesi lontani, paesi dispersi sulle montagne, cosa gli importa di quelli guardi, di valle? Guardi, questo è un discorso che in realtà richiede un allargamento dell'ottica. Scusi, perché, però come quelli in valle, non importa di quelli di sopra. Sì, relativamente, nel senso che il miglioramento del benessere che c'è stato anche grazie ai grandi impianti idroelettrici, anche grazie alla grande industria, il miglioramento del benessere diffuso ha fatto sì che aumentasse la domanda di beni agricoli di alta qualità, tipo il latte, tipo il burro, tipo la carne di qualità, e che aumentasse soprattutto la domanda di consumo turistico. Allora, se non ci fosse stato l'aumento del reddito che c'è stato nella società italiana, nella società germanica negli anni 50, non ci sarebbe stato neanche il turismo, che costituisce un settore così importante in Alto Adige. Ora, è chiaro che questo è un effetto riflesso delle realizzazioni idroelettriche che sono state fatte qua della grande industria, però questi processi non vanno mai visti come processi distinti a compartimenti stagni che riguardano solo alcuni territori. Oggi è impossibile considerare un fenomeno economico separato dagli altri. E il fatto che nei paesi di montagna si possa continuare a rimanere lì nonostante l'agricoltura di montagna non renda più nulla, praticamente stia in piedi sostanzialmente grazie a sovvenzioni o a alcune produzioni di nicchia, è possibile grazie al reddito che viene prodotto dalle altre attività e gli effetti indotti delle altre attività, e questa cosa bisogna tenerla in considerazione. Prego. Mi aggancio un po' a quello che diceva il signore. Vorrei sottolineare che all'acciaieria di Bolzano gli infortuni mortali, ad esempio, sono stati, in relazione all'ambiente che c'è in fabbrica, sono stati estremamente limitati. Io personalmente ricordo tre morti sul lavoro non so se... Sì, sì, d'accordo, quelli gravi. Quindi gli infortuni mortali sono stati estremamente limitati rispetto a quella che è la situazione ambientale, come prima considerazione. Seconda considerazione, sull'amianto, noi amianto l'avevamo dappertutto, c'avevamo, la gente aveva i guanti di amianto, però ricordo che negli anni 80, 83, 84 è uscita la notizia che l'amianto era nocivo, eccetera. No, ma è nel, giro, scusi, nel giro di pochissimo tempo dal magazzino è sparito l'amianto ed è subentrata la fibra di vetro, che non è che sia l'ideale, neanche quella, però non è l'amianto. Quindi c'è stata sempre anche la sensibilità da parte dell'azienda di rispondere a queste problematiche sulla sicurezza. Chiaramente adesso a fini terre ci sono ancora i capannoni coperti da Eternit. Sì. Sono in programma proprio adesso. E sono in programma adesso. Di togliere. Io ci sono stato 8 anni là sotto quei capannoni, ma per fortuna. Ma sono in genere, sono 14.000 metri quadrati. Sì. E rapportiamo il milione di metri quadrati che ci sono in Trentino Alto Adige, non sono niente. Sì. Sentite. Sì, però chi ci ha lavorato sotto, insomma, qualche rischio. No, dico, però sì, in sì, sì. Ce n'è un milione di metri quadrati di amianto. Secondo me, sì, ha ragione. Ce ne sono 14. Ha ragione. E beh, il discorso che faceva lei... Ah, scusi. Un altro piccolo riferimento, sempre rispetto all'amianto dei capannoni di fini terre. Noi che ci abbiamo lavorato lì tanti anni, non ho mai sentito di uno che sia morto di, come si chiama, asbestosi, di quelli che erano lì. Il caso più clamoroso è stato quello di Fedrizzi, che lavorava nelle cabine elettriche. Manutenzione. Manutenzione delle cabine elettriche. Quello è stato il caso più clamoroso. Sì, sì, sì. Ma fumava come un turco? Fumava come un disperato. Adesso, pazienza. Sì, guardi, la cosa che ha detto lei sugli incidenti mortali è legata probabilmente anche alla cultura del lavoro che c'è all'interno dello stabilimento, cioè nel senso che la consapevolezza e la preparazione del personale è uno di quei fattori che consentono di ridurre i rischi. Dove c'è una certa cultura del lavoro, i rischi naturalmente vengono ridotti, al di là dei rischi oggettivi che esistono sempre. Questo è anche uno dei problemi che c'è stato nell'evoluzione della CEI, nel senso che quando è cambiata una generazione all'interno della CEI, una generazione che era cresciuta, che si era formata in un determinato contesto e poi sono subentrati nuovi soggetti, lì è diventato importante supplire in parte a questa cultura che mancava con l'introduzione di nuove procedure di controllo, una maggiore attenzione all'antifortunistica, l'applicazione di l'attenzione appunto a questi aspetti come quelli della limitazione della presenza dell'amianto e via di questo passo. Il problema della cultura industriale, della cultura del lavoro è un po' un problema che oggi continua a permanere, insomma, quando si dice che quello che manca è il personale qualificato, ci sono bisogno di un po' meno laureati e in determinate materie e un po' più di tecnici qualificati per l'industria italiana, questa è una questione che in una certa misura. Ma se siamo indietro come laurea. Sì, è vero, però qua questo è un discorso complicato. Diciamo che ce ne sono top in certi settori e troppo poche. Scusi, però dal 1989 l'amianto è vietato, È stato il 92. 92? La legge è la legge che prevede veramente è dal 72 che la smenano per questa storia dell'amianto. Bene, signori, ancora domande? Se no sono arrivate le 7:30 e no, ci sono. Ma diciamo che innanzitutto complimenti, a me è piaciuto molto, mi piacerebbe avere una memoria, ma non so. Come mia? Diciamo qua. Che comunque volevo tornare un po' alle origini. Su quel 70% che si parla di servizi. Sì. E per me è ancora una cosa da capire bene, perché siamo in questa situazione e la società continua da quella parte. Allora, continua da quella parte perché è un settore che garantisce... allora, guardate, perché siamo passati dall'agricoltura all'industria? Siamo passati dall'agricoltura all'industria perché l'industria produceva più reddito, perché l'agricoltura era... ha avuto delle innovazioni tecnologiche importanti che hanno consentito di spostare la manodopera dall'agricoltura all'industria. Perché siamo passati all'industria dei servizi? Siamo passati all'industria dei servizi perché comunque nei servizi si vive meglio di quanto non si vive in fabbrica, generalmente. Solo in Italia? Solo in Italia? Beh, no. Come no? E in Germania? No, dico dappertutto. Sono dappertutto, questa è una realtà che c'è in tutti i paesi avanzati. Sì, in tutti i paesi avanzati, con percentuali diverse, i servizi pesano più dell'industria nella produzione del reddito. Non è così in Cina, non è così in India, non è così in Brasile, però è così in Inghilterra, è così negli Stati Uniti, è così in Germania, è così in Francia. Se lei va a vedere le statistiche, insomma, questi sono i dati. Per noi risulta forse un po' difficile capire come i servizi riescono a produrre così tanto reddito. Eppure questo avviene perché dall'altra parte abbiamo un sistema industriale a livello internazionale che prevede una divisione del lavoro tale per cui qualcuno fa i servizi e qualcun altro fa il lavoro industriale. Oggi c'è la Cina che fa, vedevamo, più della metà dell'acciaio mondiale. E questo consente all'Italia di dedicarsi forse a fare altre attività. Questo detto molto semplicemente. Poi in Alto Adige, all'interno dei servizi, il 18% naturalmente è occupato dalla pubblica amministrazione, che è il più grande datore di lavoro attualmente sul nostro territorio. Avrei un'ultima domanda. Sì. Lei ha detto che l'Italia è al decimo posto nella produzione di acciaio. Sì. Gli Stati Uniti dove sono? Gli Stati Uniti sono al terzo posto. Sì, sì, sì, sì, terzo posto. Perché quello che volevo dire io è questo, che ho l'impressione che l'industria siderurgica sia troppo onerosa per i paesi occidentali, per i paesi progredienti, troppo onerosa, perché è ad alto contenuto energetico e quindi tutti i paesi progrediti cercano di liberarsene. Sì, sì, sì. E perché deviano questa produzione su paesi in via di sviluppo. Questo succede. Cina del Brasile. Questo succede per l'industria India. Per l'industria siderurgica, questo succede sempre di più anche per l'industria chimica. E anche per l'industria manifatturiera, dove però quello che conta è il costo del fattore lavoro, l'industria, ecco, sì, lì conta il costo del fattore lavoro. Però se guardiamo insomma quelli che erano i grandi paesaggi siderurgici d'Europa, a partire dalla Ruhr al Belgio, all'Inghilterra ormai assolutamente, la siderurgia è assolutamente marginale all'interno del panorama economico inglese, hanno dismesso questa attività. Da un lato forse un male, dall'altro insomma forse la qualità del lavoro che c'è attualmente è più consona a quelli che sono i valori correnti.